Abbiamo riscontrato in diversi lavori una attenzione alle dinamiche del nostro tempo e della nostra realtà. Ad esempio, in tempi di ristrettezze, diciamo, lavorare in maniera creativa con quello che si ha, ma non come ripiego, quasi come rivendicazione e come esibizione di un gesto capace di costruire. Un esempio di lavoro incentrato esplicitamente su questo approccio è la nuova produzione di Claudia Triozzi. È una coreografa che farà una prima tappa di studio per un CSN, un centro coreografico nazionale in terra e in paglia. È una performance in cui nei 10 giorni di residenza lei farà anche diverse interviste a Bologna, da contadini a intellettuali. In questo caso lei viene da 30 anni di esperienza, vuole iniziare da zero. È interessata ai rifugi, ripari di fortuna, alle costruzioni fatte veramente con quello che si ha a portata di mano. In questo caso il centro coreografico parte dalla sua creazione fisica, fango, terra, paglia, come si fa nelle campagne, come fanno anche le nuove sensibilità che si occupano di ecosistemi. Con questi materiali inizierà a costruire fisicamente il luogo da abitare. E chiaramente è una provocazione. Però è il suo approccio in cui artigianalità e ricerca insomma, si avvicinano contro la grandeur di alcune istituzioni che sono enormi ma che sono vuote di contenuto.